falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Forse la pulsione più nobile per un essere umano è quella della sfida. Tutte le grandi azioni e i grandi gesti partono da una sfida, magari con gli altri, con le convenzioni o più semplicemente con se stessi. Oggi raccontiamo la storia di chi sapeva sfidare se stesso. Chi cammina, danza o volteggia su una corda a qualche metro da terra non è un funambolo. Che il suo filo sia teso, lento, molleggiato o completamente libero, che egli lavori con o senza bilanciere, viene chiamato ballerino sulla corda. Chi impiega nello stesso modo un filo sottile di ottone o di acciaio diventa filferrista. Resta chi fa uno spettacolo che è simile a un gioco d'azzardo. Chi è fiero della propria paura osa tendere cavi sui precipizi, si lancia all'assalto dei campanili, allontana e unisce le montagne. Il suo cavo d'acciaio, la sua corda, devono essere tesi all'estremo. Egli si serve d'un bilanciere per le grandi traversate. È il ladro del Medioevo, l'ascensionista del secolo di Blondin, il funambolo. Forse lo ricorderete come il giovane che ha camminato sul filo tra le Twin Towers. Il suo nome è Philippe Petit, ma lui nella vita ha fatto anche molto altro. Oggi parliamo di Philippe Petit, che a soli 4 anni ha cominciato a capire che non amava stare a lungo con le altre persone, così ha iniziato ad arrampicarsi su qualunque cosa lo potesse allontanare da loro, a partire dagli alberi. Nasce in Francia il 13 agosto del 1949, del segno del leone, e fino da piccolo viene attirato dal mondo della magia, della prestidigitazione. A 6 anni annuncia a tutti che vuole diventare un regista teatrale. Intanto cerca di imparare qualche trucco, si esercita con i giochi di prestigio fino ai 16 anni, età in cui comincia a fare i primi passi sul filo e a sperimentare quella sensazione di equilibrio di cui, da uomo maturo, parlerà così. The wire walker creates the perfect balance. Il funambolo trova l'equilibrio perfetto, ma ad ogni passo tale equilibrio deve essere ricreato. È un combattimento in movimento. E se il funambolo ha talento ed eleganza, e se è un poeta, aggiungerei, allora questo combattimento è invisibile, perché avviene interiormente, e si crea questo equilibrio perfetto. E la gente pensa che sia facile, ma in realtà nella mia testa c'è una battaglia, una turbolenza continua per riconquistarlo continuamente. Ma il pubblico non lo percepisce. Vede un uomo calmo, perfettamente controllato. Durante gli anni della sua adolescenza esprime la sua voglia di aggredire il mondo in molti modi. Studia tutte le arti, disegno, pittura, scultura, ma anche falegnameria. teatro, si interessa dell'arte della tauromachia, impara a cavalcare, a costruire case sugli alberi, a tirare di scherma. È un ciclone, è energia pura, viene espulso da ben 5 scuole. Tra i motivi ricorrenti c'è quello che ama borseggiare gli insegnanti, manipolare e nascondere oggetti e carte, e soprattutto non vuole sottoporsi a esami per dimostrare quello che sa fare. Non è lì che lui vuole essere promosso. Intanto si impegna, studia, si concentra, ma vuole essere e sentirsi libero, e questo suo modo di essere, questa sua volontà di affrancarsi dagli altri e dalla famiglia fa sì che a soli 17 anni Philippe sia già fuori di casa. Fin dall'infanzia non ho mai sentito il supporto della mia famiglia. I miei genitori appartenevano a un mondo completamente diverso da quello dello spettacolo, del funambolismo, e non mi hanno mai incoraggiato, almeno questo è quello che ho percepito. Forse non era così, ma comunque ormai i miei non ci sono più. Io non ho una vera e propria famiglia. Ho un fratello e una sorella da qualche parte, ma io vivo la mia arte in maniera solitaria, in un certo senso. With my art in a kind of solitary way. Philippe non è nato nel mondo del circo, che lui considera molto competitivo. È diventato un giocoliere autodidatta e presto si è fatto appassionare dall'arte del funambolismo. Con la sua tuba e il suo monociclo diventa un vero e proprio artista di strada, e come tale non ha un vero e proprio impiego. Un po' perché, come dice lui stesso, era un ragazzo arrogante, un po' perché ama fare le cose come vuole lui, senza avere qualcuno a cui dover rendere conto. Visto che la sua arte di strada lo porta a girare per tutto il mondo, dalla Russia all'Australia fino agli Stati Uniti, negli anni Philippe impara lo spagnolo, il russo, l'inglese e il tedesco. Intanto la sua avidità e la sua curiosità, avidità di vita naturalmente, lo portano a giocare a scacchi, a scrivere, studiare architettura e ingegneria. Ha una grande sete di conoscenza ed è anche un grande perfezionista. Questa miscela di tenacia, di invenzioni, di fantasia lo porterà a fare grandi imprese, perché a Philippe da sempre piace stare sulla strada e non dentro a teatri o tendoni, perché vuole essere a contatto con quello che gli sta sopra, e cioè l'aria, il cielo e lo spazio. I suoi spettacoli sono all'aperto, a volte sono davvero grandi imprese. Sì, perché i suoi sono dei veri e propri colpi. Sono progettati non per avere una ricompensa, ma per il gusto di farli e di sorprendere. Sono tutti fatti in modo clandestino, illegale, su cavia a altissime quote. Verrà arrestato più di 500 volte nella sua carriera, e tra le sue traversate clandestine ce ne sono alcune storiche, come quella del 71 che unisce i campanili di Notre Dame a Parigi, o quella di Sydney nel 73, ma anche lungo le grandi cascate di Peterson e addirittura del Niagara, fino a quella pazzesca, impossibile, incredibile, quella sulle Torri Gemelle. Ma per arrivare lì dobbiamo fare un passo indietro. Intanto siamo a Parigi, dove Philippe si trova a soli 18 anni, siamo nel 68, ed è da pochi mesi che lui si esercita con l'arte del funambulismo. Ha capito che per lui camminare sul filo è una vera e propria passione, che diventerà in qualche modo la sua ossessione. Ed è proprio nell'inverno del 68, sotto la Torre Eiffel, che succede qualcosa di particolare, la svolta. Philippe è in una sala d'aspetto di un dentista e su un giornale vede la Torre Eiffel e di fianco due grattacieli altissimi che saranno costituiti e costruiti a Manhattan. Una scritta: 100 metri più alti della Torre Eiffel, che già misura 320 metri. E in quel momento capisce che ha una missione. Strappa il foglio, così, e prende il ritaglio del giornale con scritto World Trade Center, facendo uno dei suoi trucchetti per non farsi beccare dagli altri pazienti seduti. Se lo porta via dentro alla tasca della giacca. Scappa a casa e mette quella pagina strappata in una grande scatola rossa sotto il letto. Una scatola che ha un titolo ben preciso: Progetti. Sono i progetti che stanno maturando tra le nuvole, i desideri segreti, i sogni da ragazzo. Eppure quell'articolo, per 4 anni, fino a quando ha 22 anni, quell'articolo rimarrà dimenticato nella scatola. Nel frattempo lui non lo sa e nemmeno se ne accorge che negli anni successivi qualcosa effettivamente sta succedendo a New York. L'idea di questo architetto viene lentamente messa in pratica. Vengono costruiti dei plastici e poi piano piano a Manhattan viene scavato il terreno. Al posto di 13 edifici che vengono demoliti si inizia a costruire. Da quel momento inizia a essere veramente sempre più reale il progetto delle Twin Towers. Un grattacielo, come scrive Philippe Petit nel libro Toccare le nuvole, con due braccia verso gli dèi. Parliamo di 192.000 tonnellate di acciaio e di lavori che proseguono per 3 anni senza sosta. Il falco e il gabbiano. Gli anni 60 stanno per lasciare il posto agli anni 70. Philippe vive la sua giovinezza a Parigi e dopo tanti spettacoli di strada decide che è giunto il momento di andare oltre, provare a fare qualche colpo, come li chiama lui, amante dei film polizieschi e soprattutto di Bruce Lee. Così il 26 giugno del 71, a 80 metri d'altezza a Parigi, passeggerà sul cavo, sognando occhi aperti, e realizzerà la traversata che unisce i campanili della cattedrale di Notre Dame. È la sua prima performance fuori legge, la prima di una lunga lista. Finisce in prima pagina, ma i francesi non lo considerano, così Philippe decide di lasciare Parigi alla volta dell'Australia. È già voglioso di fare un'altra traversata, questa volta a Sydney, al Sydney Harbour Bridge. Siamo nel 1973. Quella mattina centinaia di persone lo hanno visto attraversare le cime dei piloni nord del ponte camminando lieve su una fune. Niente corde di sicurezza, un lungo bilanciere, le sue scarpette e la sua tuta nera. Il mio ricordo della camminata a Sydney è di un'avventura che è stata completamente improvvisata, con tutti quei disastri e problemi nel cuore della notte. Ma la cosa bella è che io a malapena parlavo la lingua, non conoscevo nessuno in Australia, solo un amico che mi aveva detto: se passi di qui, chiamami. E lui è passato, e come! Queste sono le parole di Philippe tratte da uno dei documentari legati alla sua figura, realizzato da James e Jess Richardson. E in effetti Philippe è davvero un impavido, ma lui non cerca popolarità o denaro. Lui chiede e regala sogni. Mi ha sempre interessato camminare su un filo in modo semplice ed elegante. E faccio in modo che la gente dimentichi che sto camminando su un filo. Non cerco di spaventare il pubblico e di impressionarlo. Cerco di trasportarlo su nel cielo, dove ci sono le creature alate, la magia, i miracoli. E faccio in modo che il filo scompaia. Dopo l'impresa australiana, Philippe rientra in Francia, ma si stanca in fretta dello zelo, come lo chiama lui, della polizia, che ormai un po' lo conosce e cerca di bloccarne le azioni, anche, come li chiama lui, i colpi. Lui ama i film polizieschi. Decide così di partire per New York. Ha scoperto che i lavori a Manhattan procedono a passo spedito e vuole vederli con i suoi occhi. Quando arriva sotto la prima torre è esterrefatto. Ci gira attorno, tocca la facciata fredda e gelida di alluminio. I suoi pensieri entrano in un vortice. Continua a pensare che questa volta ha pensato troppo in grande. La camminata tanto sognata è impossibile. Eppure qualcosa lo attira. È come se ci fosse una calamita nel ventre di quel grattacielo. Vede una porticina di sicurezza, è aperta, lo invita a entrare e lui comincia a salire, trova una scala di sicurezza e comincia a salire sempre più in alto. Passa un'ora e lui è ancora sui gradini. Prima vede i piani occupati da uffici e da impiegati che lavorano, poi sale sempre più in alto tra uffici silenziosi e semivuoti, e poi i piani non sono più suddivisi e non ci sono neanche più i muri, fino a quando arriva all'ultimo piano, dove trova una piccolissima scaletta che va a finire in mezzo al soffitto. E pensate un po', sbuca sul tetto, nel centro del grattacielo. È arrivato quasi a toccare il cielo, è al 110° piano. Si guarda intorno e pensa di trovarsi dentro al nido indistruttibile di un uccello predatore, dentro a una fortezza in balia di ogni vento, perché là sopra il vento lo senti. Noi sapremo dopo che quella non è una fortezza e che 27 anni dopo, nel 2001, proprio quelle torri gemelle saranno al centro di un momento storico drammatico per tutto il pianeta. L'11 settembre 2001. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli delle Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta da New York, vedete le torri gemelle del Twin Towers. A quanto pare questa mattina erano da poco passate le 9, ora poco prima delle 9 di stamattina, ora chiaramente di New York, da qui erano più o meno le 3 del pomeriggio, quando due aerei in due momenti diversi, esattamente una decina di minuti dopo, prima un aereo, poi un altro aereo, si sono schiantati sulle due torri gemelle delle Twin Towers, già teatro di un attentato islamico nel febbraio del 93, le due torri gemelle note come World Trade Center. A quanto pare uno dei due aerei era un Boeing appena dirottato, un Boeing 757 appena dirottato, e che poi si è andato a schiantare appunto sulle due torri gemelle. Vi stiamo dando conto delle immagini di notizia in diretta. Ma in quel momento, in quell'anno, nel gennaio 74, le due torri gemelle si ergono ancora sontuose nel cielo di Manhattan. E Philippe crede di essere in un posto sicuro dove l'impossibile può diventare possibile. Intanto arriva il momento di tornare a Parigi e qui incontra il suo amico dell'adolescenza, Jean-Louis, un ragazzo dal corpo atletico e con le gambe robuste, occhi vivaci e penetranti e un sorriso accattivante. Jean-Louis è davvero un grande amico, è con lui che a Parigi è entrato nel mondo e nell'arte del funambolismo. Anche lui è un funambolo e lo ha sempre incoraggiato, rispettando le sue scelte, a volte molto ardite. Non è un caso che è proprio Jean-Louis che lo aveva aiutato a Notre Dame a gettare la fune da una all'altra delle torri. È Jean-Louis che lo ha aiutato per tutta la notte a preparare l'installazione ed è stato proprio lui a fare le foto di Philippe all'alba e diffondere il reportage della sua traversata in tutto il mondo. E sarà lui, come un vero amico, a dire a Philippe Petit: il tuo piano non sta in piedi, fa acqua da tutte le parti. Queste parole di Jean-Louis, dette con onestà, racconterà Philippe Petit, prima lo fanno arrabbiare, ma poi lo sproneranno a studiare ancora di più il progetto. È un progetto grandioso, ma è anche una bufala. Non conosci abbastanza i dettagli, non sai gli orari degli impiegati, non sai i turni di guardia della sicurezza, non sai come si muovono gli addetti alla costruzione e alla pulizia. Insomma, devi studiare bene tutto, a partire dall'esatta distanza fra le torri. Non bastano un po' di foto e un po' di cartoline. E beh, la verità te la devono dire gli amici, e da quell'acceso confronto Philippe capisce che l'altro ha ragione. Non si può solamente conoscere il progetto di un edificio che ancora non è completato per riuscire in un'impresa. Bisogna studiare tutto alla perfezione. Deve entrare nel ventre della bestia, come scrive lui nella sua biografia Toccare le nuvole. Deve in tutti i modi conoscerla in maniera perfetta. Così torna nuovamente in America. Si apposta sulle panchine davanti agli ingressi, entra e rientra nel palazzo, controlla le uscite di sicurezza e segna tutto sui suoi block notice. Sa che deve scoprire in modo molto specifico il turno degli impiegati, gli orari degli addetti ai lavori, ma anche come si vestono, cosa indossano, il colore degli elmetti, che tipo di attrezzature e che tipo di materiale trasportano sui carrelli, ma anche gli orari di punta della gente che entra e che esce, il flusso umano che si riversa nelle strade, chi entra e chi esce, i rumori e gli spostamenti del personale di sorveglianza, degli uomini d'affari e di tutti gli impiegati. È un lavoro enorme. Lentamente impara a essere sempre più scaltro nell'aggirare la sorveglianza, nel gestire gli incontri con chi gli chiede: ma lei che ci fa qui? Nell'evitare i capisquadra. e piano piano si fa anche uno schema dei percorsi che deve fare per arrivare dove vuole lui. Registra di nascosto anche l'ora di entrata e di uscita dei veicoli, le scritte sulle fiancate, le divise degli autisti, perché lui deve conoscere tutto. Intanto prenota anche un giro in elicottero fingendo di essere un turista, fa foto, fa strane domande, ma finalmente scoprirà anche esattamente la distanza tra le due torri. La distanza è 138 piedi, cioè 342 metri e 6 centimetri. Ora lui sa quanto sarà lunga la sua passeggiata nel cielo di Manhattan, ma la storia di Philippe Petit è appena cominciata. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Philippe Petit, che in questo momento è alle prese con la sua più grande impresa, quella che dovrà cambiare la storia del funambulismo, perché lui sta ultimando i suoi appostamenti per camminare sopra le Twin Towers a New York. Siamo nel 1974, ma accade un incidente, mette il piede sopra un chiodo, capita anche a loro, non riesce più a camminare, ha una caviglia molto gonfia e sa che ha un volo di rientro per Parigi dopo pochi giorni, però lui ha ancora da fare lì al World Trade Center. Poi ha un'illuminazione, fa di necessità virtù, compra un paio di stampelle e capisce che faranno la differenza, le trasforma in un ottimo strumento di spionaggio. Miracolo! Uno che zoppica con le stampelle può andare dappertutto. La gente ti tiene le porte, ti schiaccia il pulsante dell'ascensore, ti chiede di continuo: tutto bene? Eh sì, va tutto bene, va proprio a meraviglia. Senza fretta mi avventuro su per le scale riservate. Esploro senza sotterfugi piani ad alto rischio. Apro a caso una dozzina di porte proibite. Qua e là, nei punti strategici, mi siedo per riprendere fiato. Appoggio i polsi stanchi in cima alle stampelle. Non c'è posizione più naturale. E i miei occhi osservano la scena. Così imparo il codice sulla manopola del cancello di sicurezza che mi aveva resistito per giorni. Oggi parecchi dipendenti digitano 77435 a un metro da me, guardandomi con un po' di sospetto. Ogni volta che una guardia mi sorprende, la mia infermità lo trasforma in un samaritano che scorta l'anima perduta fino all'uscita. Stampelle, un trucco da tenere presente. Così lui torna in Francia e compra l'equipaggiamento, organizza delle prove pratiche nella campagna francese mentre i dischi di Nino Rota gracchiano nel giradischi. Immaginate queste note e un gruppo di ragazzi idealisti tutti attorno a Philippe e al suo sogno. C'è chi lo sosterrà e c'è chi ha paura, crede che questo sia quasi un suicidio. Lui va avanti, vuole portare una squadra di amici fidati a New York, perché queste sono vittorie che non puoi ottenere se non hai un gruppo di persone che ti aiutino a portare le attrezzature a oltre 400 metri di altezza, a preparare tutto, quelli che devono riprendere. Non è semplice, come si fa a lanciare a una distanza di 100 metri il filo da un grattacielo all'altro? Beh, c'è un amico, Jean-Louis, che propone una soluzione antica, facile facile, arco e freccia. L'idea lo fa ridere, pensa che sia una pazzia. E invece tra i problemi irrisolti c'è il vento, perché bisogna tornare a New York. Qui Philippe riuscirà a fingersi un giornalista munito di un tesserino falso. Potrà scattare foto, raccogliere dati utili durante una finta intervista a architetti operai per una rivista di architettura. E poi incontrerà un uomo, un suo ammiratore, che guarda caso lavora in uno degli ultimi piani di una delle due torri. Quest'uomo si chiama Barry Greenhouse, è uno che, un tipo che assomiglia un po' a Dalí, e quest'uomo lo aiuterà parecchio perché diventerà il suo complice e farà arrivare all'82esimo piano della Torre Sud tutte le attrezzature. Ormai ci siamo, è tutto pronto. Your life itself. È il 7 agosto 1974, è l'alba. Philippe ha trascorso la notte nascosto dentro alla torre con Jean-Louis. Nell'altra torre, la Nord, ci sono gli altri due complici. Philippe è teso, il suo amico anche. In quel momento ero molto preoccupato. Per la prima volta ero molto spaventato. Mio Dio, ho pensato, anche Philippe è esausto quanto me. Beh, forse non come me, ma lui deve fare ben altro. E comunque non è una buona cosa. Il filo era il peggior filo che avessimo mai montato e io ero davvero spaventato. Insomma, delle premesse non proprio idilliache. Però intanto riescono con arco e freccia a lanciare la fune sul tetto. Sul tetto dell'altra torre. E ora le Twin Towers sono unite da un cavo d'acciaio e aspettano solo lui, Philippe T. Raggiungo il bordo superiore, scavalco la trave, poso il piede sinistro sulla fune d'acciaio. Il peso del mio corpo rimane sulla gamba destra, ancorato al fianco dell'edificio. Appartengo ancora al mondo materiale. Se continuo a spostare il peso verso sinistra così lentamente, la gamba destra si alleggerirà e il piede destro sarà libero di raggiungere il filo. Da un lato, la massa di una montagna, una vita che conosco. Dall'altro, l'universo delle nuvole, così pieno di incognite da parerci vuoto. Troppo spazio. Tra i due, un sottile filo su cui il mio essere esita nel distribuire le forze rimaste. Attorno a me nessun pensiero. Troppo spazio. Sotto i miei piedi un filo, nient'altro. Gli occhi vedono ciò che spunta davanti a me. La cima della Torre Nord. 60 metri di cavo. Non si torna indietro. È una linea retta che si arrotola su se stessa, che dondola, che si insella, che vibra, che è ghiaccio, che è una tensione di 3 tonnellate pronta ad esplodere, a dissolvermi, a strangolarmi, a ingoiarmi, a gettarmi silenziosamente nel vuoto schiacciato tra le torri. Il filo aspetta, l'ignota, l'infinita, la gioiosa morte allunga le braccia e si nasconde il viso. Le sue braccia minacciose, migliaia, decine di migliaia di tonnellate di calcestruzzo, vetro e acciaio. Una bocca profonda 110 piani e alta più di 400 metri. Un urlo interiore mi assale, il desiderio irrefrenabile di scappare. Ma è troppo tardi. Il filo è pronto. Il cuore è premuto contro quel filo con tale forza che ogni battito echeggia, echeggia e dissolve ogni altro pensiero. Il secondo piede si posa con decisione sul cavo. Mamma mia, Philippe cammina piano per 45 minuti, 45 minuti, ha il volto disteso ma concentrato, va più volte avanti e indietro, poi si inginocchia e fa quasi un saluto al suo pubblico che sta 400 metri più in basso. Intanto la polizia è pronta ad arrestarlo appena toccherà terra, sperando che tocchi terra, sulla Torre Nord. Il più grande pericolo per il funambolo sono gli ultimi passi sulla corda. Molti funamboli, quando arrivano verso la fine della camminata, si sentono così sicuri di avercela fatta che perdono la concentrazione. Ed è proprio lì che cadono dalla corda. L'ho imparato nel tempo, e allora invece di andare sempre più veloce, alla fine rallento. È anche più bello da vedere, è il gran finale a rallentatore. Per sicurezza procedo molto lentamente, perché so che non sono arrivato finché non poggio i piedi sulla piattaforma. Intanto Annie, la compagna di Philippe, è arrivata con un taxi sotto alle Torri Gemelle, proprio mentre le strade si affollano di gente che va a lavorare. Ci sono quasi 100.000 persone. J'ai vu Philippe. J'ai vu Philippe là, oui, c'était extraordinaire. Vidi Philippe lassù e fu incredibile. Davvero bello. Sembrava che stesse camminando su una nuvola e furono dei momenti straordinari quando si sdraiò sulla fune. C'era questa immagine statica di Philippe steso lassù. Philippe couché là-haut. E puis l'autre moment très très fort. E poi ci fu un altro momento emozionante. Quando lui si inginocchiò sulla fune e salutò. E l'ha salué. La gente iniziava a radunarsi e io quindi urlavo: guardate, guardate! E la gente iniziava a guardare, ma non si poteva vedere niente. La gente mi chiedeva: che succede? Cosa vede? E io rispondevo: guardate, un funambolo che sta camminando. Era come se camminasse su una nuvola. Beh, ci vuole del fegato anche a fare la fidanzata di un tipo così. Questa infatti è la testimonianza di Annie, raccolta in Man on Wire del 2008, che racconta la folle impresa di Petit e che vincerà l'Oscar come miglior documentario. Il più breve discorso della storia degli Oscar. Sì! Ma voglio aggiungere brevemente che non avrei potuto fare il film senza la mia Katie. E poi voglio dire a Verne, ho sempre portato con me la moneta che mi hai regalato. E avevi ragione, abbiamo vinto. E quindi è il momento di ringraziare l'Academy per aver creduto nella magia. 27 anni dopo quel mattino del 7 agosto 1974, Philippe Petit inizia a scrivere i dettagli di quel folle colpo. Ascoltando il clavicembalo ben temperato di Bach nell'interpretazione definitiva di Evelyn Croachet al piano, torna a essere quel 24enne che dimentica di mangiare, che perde il sonno per rivivere l'avventura del World Trade Center. Ma la sua penna si ferma la mattina dell'11 settembre 2001, quando le sue torri sono attaccate e distrutte. Ma alla fine riprende a scrivere perché farà notare: sono un artista e la mia missione è quella di creare. Philippe Petit oggi tiene workshop internazionali in varie discipline, vive tra New York e una stalla costruita sui monti Catskill, nel nord dello stato di New York, e dispensa la sua saggezza. It's a very complex and beautiful idea. È bello e difficile allo stesso tempo avere un'idea e crederci fino in fondo. Ed è così che i sogni diventano realtà. Bisogna avere il coraggio delle proprie opinioni. Anche se si va nella direzione sbagliata, bisogna credere in se stessi. Anche se si va a sbattere contro un muro, si tratta di un errore, ma si va avanti, si cambia strada. Non seguire ciò in cui si crede, dove ti fa andare? Dove gli altri ti dicono di andare? Penso che oggi molte persone seguono la strada indicata da altri, invece della loro. L'intuizione è proprio questo, credere in se stessi. E non vuol dire essere egocentrici, ma genuini. Naturalmente ognuno deve lavorare su se stesso e seguire la propria idea, perché è quella giusta, almeno finché non fallisce. Anche in Italia c'è un funambolo filosofo, si chiama Andrea Loreni, è piemontese, diciamo autodidatta. Pronto? Buongiorno Andrea, buongiorno. Senti, intanto perché si diventa funamboli? Cosa provi durante le tue passeggiate? Guarda, la cosa, l'ultima cosa che ho scoperto sul cavo è la libertà. Cosa cerco? Penso una conoscenza e poi una sorta di contatto con l'assoluto che io trovo lassù, cioè una roba che poi una volta che l'hai scoperta ti accorgi che magari ce l'abbiamo anche nel quotidiano in cose meno eclatanti, però in quelle condizioni un pochino più forte vederlo, no? E poi insomma lo ritrovi, ma lassù a cavolo è proprio forte questa cosa di libertà dal piccolo, di libertà da me stesso, certo, per partecipare a qualcosa di molto più grande. Tu ti ricordi la prima volta che hai detto io vorrei salire su una fuga? Quanti anni avevi? Ma relativamente tanti, nel senso che ho iniziato a fare spettacoli e cose verso i 22-23 anni. Mentre studiavo ho iniziato a fare spettacoli, quindi quell'età lì è stata l'idea di usare il cavo e poi alla lunga è diventato il filo alto. Però diciamo soprattutto una corda di canapa tra due alberi verso i 22 anni. Petit dice di non avere paura perché conosce i suoi limiti, ma anche per te è così, cioè non si ha paura? Perché la prima cosa che viene da chiedere è questa. Io ne ho sempre, ma diventa poi interessante, nel senso che anche la paura poi per me è diventata poi col tempo, conoscendola come tante altre cose con cui hai più confidenza, sono meno paurose di come sono all'inizio. Anche la paura diventa anche un fattore per me importante che ci sia, perché è la cosa che sto facendo è pericolosa. Quando non ti blocca è un aiuto a stare concentrato dove sei, avere il corpo che reagisce nel modo più corretto. Per me la paura è diventata un attrezzo che uso per entrare. Senti, ma che differenza c'è tra le altezze? Cioè tra stare a 20 metri, a 50 o a 400 come lui? Cioè, c'è differenza? Che uno se cade comunque se fa male uguale, eh? Sì, la parte della caduta uno cerca di non pensarci mai, non fare quelle differenze. Però devo dire che mi sono risposto a questa cosa un po' con l'esperienza, no? Perché poi ho fatto diverse altezze cambiando e mai riesci a allenarti all'altezza in cui lavori. E a un certo punto no, non c'è differenza. Senti, ma dove si deve guardare? Cioè quando uno sale su una fune, cosa guarda? La fune? O mi immagino non guarda sotto. Dunque, all'inizio certo la fune, perché in qualche modo quello che ti permette di avere sempre una cosa uguale a tutte le altezze e mi aveva detto un funambolo russo, la distanza tra i tuoi occhi e il cavo è sempre quella. E quindi quello è un riferimento molto forte per, in qualche modo, diciamo, avere un qualcosa di comune in tutte le altezze. Dall'altro lato, poi, quando hai, senti una certa, appunto, possibilità di fare delle cose, di dare un'occhiata anche giù, non è male, perché, insomma, io ho visto paesi e cose da un certo punto di vista che me lo sono potuto permettere solo io. Come petita ha visto cose che, da un punto di vista, che ha visto solo lui. Quindi perché non dare un occhio in giro quando sei da tu e hai, diciamo, questa possibilità? Se uno ci riesce, complimenti. Grazie, Andrea. Grazie a te. Ciao. Beh, certo, sentire parlare con questa naturalezza di camminate a decine di metri d'altezza fa venire i brividi, ma anche fa venire voglia di saperne di più. Ci sono diversi libri, io vi segnalo Toccare le nuvole, Trattato di funambolismo, Creatività, editi da Ponte alle Grazie. E fra pochi mesi vedremo sul grande schermo anche la pellicola in 3D The Walk del regista Robert Zemeckis, ispirato proprio alla storia del nostro protagonista. Sentiamolo ancora. Io non sono affatto speciale. E parlando di talento, personalmente credo che non si nasca con delle caratteristiche speciali. Credo invece che essere il migliore in una disciplina sia una questione di passione. Se si ha passione, se si ama imparare al meglio qualcosa per mettersi alla prova, lo si fa intensamente, con tenacia e continuità. E questo vuol dire credere in se stessi, in ciò che si ama, e non accettare mai un no come risposta, nemmeno da se stessi. Ci sono persone che combattono e persone che rinunciano. E questo fa parte della chimica di ognuno di noi, e siamo tutti differenti. Ma io credo che siamo nati per l'impossibile e che possiamo fare qualsiasi cosa. Ci sono storie che spesso sono sconosciute, di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala alla loro vita, hanno saputo volare in alto, hanno saputo lasciare un segno. C'è chi ha tentato, chi ha avuto cadute, risalite, chi ci è riuscito un attimo e poi non ce l'ha fatta più, perché ciascuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche dare il colpo decisivo che lo porta a volare in alto, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci commenti, ma soprattutto segnalarci altre vite su cui puntare i riflettori e in questo caso il microfono, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it e sul nostro profilo Facebook o su Twitter, @falcogabbiano24. Insomma, scrivetemi che mi trovate. A lunedì. Città vola via, vola sopra quell'idea di equilibrio e simmetria. E il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.